Adesso sto registrando, fatevi sentire pubblico immenso. Grande, meno male che la secondo take siete migliorati, migliorate. Allora, si segga per cortesia, gentilissimo. Siamo qui in questa serata devastante, fa un freddo incredibile. Io vorrei una giacca, se qualcuno da casa ci porta una giacca per cortesia, un bel piumino col cappuccio. Siamo qui scioltissimi a presentare i vincitori, le vincitrici, i racconti vincitori del primo glorioso racconto, concorso di scrittura creativa. Ce la posso fare adesso, vi faccio girare la ruota, pesco una vocale e prendo l'eredità. È una serata difficile, ci sono tipo a 900 gradi, tasso di umidità della Cambogia, c'è lo sciopero, c'è stato un corteo stamattina, è una vita difficile, esatto. Però siamo qui lo stesso. Allora, alcuni dati. Il concorso di scrittura creativa l'abbiamo fatto partire che sarà stato più o meno settembre. Volevamo chiuderlo il 25 aprile, ma abbiamo deciso di posticiparlo per problemi che è meglio non spiegare, di gestione. L'abbiamo chiuso definitivamente a inizio giugno, forse 13 di giugno, una roba del genere, 18 giugno. E siamo qui oggi a presentare chi sono i racconti che per noi hanno vinto. 18 maggio forse era. Vabbè, quello che è. Sono arrivati la bellezza di 12 racconti di autori e autrici varie, sono arrivati diversi racconti anche di tipo, stile, maniera di scrivere, abbiamo dei saggi, delle un racconto che è quasi una poesia, abbiamo tanti racconti proprio di narrazione vera e propria e abbiamo avuto anche una giuria che ci ha più o meno aiutato perché purtroppo non siamo riusciti a coordinarci benissimo, ai noi è andata così, l'anno prossimo miglioreremo. Cos'altro dire? Non lo so, funziona anche questo microfono? Ah giusto, il nome della giuria, dilli tu perché non li ricordo. Ok, allora nella giuria c'erano, vabbè, ovviamente Dam. Olè. Bravi. E Chiara Deina, che è una scrittrice. Arianna Montanari, che è anche essa una scrittrice. E Gennaro Ascione, che è anche lui uno scrittore e è anche ricercatore all'università. E queste tre persone hanno letto tutti i racconti, hanno dato i loro pro e contro, diciamo, su... la base dei personaggi, del potere sovversivo dei racconti, dello stile, della tonalità, quindi c'è stata tutta una parte anche molto tecnica. Zamma ha votato anche sulla parte più a cuore, cioè dimensione politica e sì, quanto ci piacevano le pratiche proposte in termini di rivoluzione. Esatto, già allora per fare un passo indietro, l'idea che muoveva il concorso era più o meno questa: dato che abbiamo in questo momento un po' poche idee su come fare la rivoluzione, ce ne servivano delle altre e abbiamo trovato questo modo molto subdolo e guevarista, direbbe qualcuno, per suscitare la volontà di partecipare e quindi darci le idee che non avevamo. E secondo me alcune cose carine sono anche arrivate. Secondo me abbiamo la fortuna di avere qui due degli autori che hanno scritto alcuni dei racconti, purtroppo non tutti gli autori, non tutte le autrici, vabbè, fa niente, le contatteremo individualmente, quindi magari dopo chiediamo anche agli autori che cosa ci hanno voluto mettere nei racconti. E quindi per me personalmente obiettivo raggiunto, cioè ci sono delle cose in più su cui riflettere, su cui poter fare una rivoluzione. Ci sono anche delle cose, tante secondo me, che si possono notare, che ricorrono nei racconti, ritornano come schemi in generale di quello che può essere l'immaginazione di una rivoluzione possibile. E noi all'inizio, quando ci eravamo pensati questo evento, avevamo pensato, leggiamo, parliamo con gli autori, con le autrici, leggiamo i racconti, ne discutiamo. Adesso è una formula molto più semplice e basilare, però si può fare lo stesso. L'unica cosa da rendersi conto è che tra poco si mangia, per cui parleremo con la bocca piena, ci inventeremo qualcosa lo stesso. Non so, siccome la proclamazione ufficiale la facciamo dopo, quando siamo più gente, tipo in cucina c'è la stessa quantità di persone che c'è qui adesso, più o meno. Ci sono 20.000 persone in cucina, a 8.000 gradi. E quindi se per ora non lo so, vogliamo partire da Luca, e Luca ci parla un po' del suo racconto, perché l'ha scritto e come, io faccio una prova. Questo microfono va? Sì, ci va, sei tu che ci devi parlare dentro. Prego. Senti pure, non ti preoccupare. Arriva, arriva, no ma ci arriva il cavo fino là, giuro, l'ho preso lungo apposta. Ci arriva. Eccolo là. Dal divano in similpelle veramente fresco da cui si siede. Angolare, divano esatto. Notevole. E che dire? La spinta a scrivere, innanzitutto è stato uno stimolo interessante a riattivare delle forze creative interiori e quindi a rimiscelare vissuto e proiezioni possibili ed impossibili e condividerle. Quindi questo fattore qua di un collettivo militante attivo sul territorio che proponesse un'idea del genere ha mosso delle corde per dire ok, se c'è possibilità di attivazione facciamolo. E il racconto scritto ma si interroga su modalità, possibilità d'azione. Devi dire il titolo però, perché sennò non lo sappiamo. Il titolo è l'IPA Move che sta per? Sta per leave your phone at home and move, quindi lascia il tuo telefono a casa e muoviti e muoviamoci. E quindi questo stimolo qua a uscire da una forma di controllo condizionata sia a livello molto operativo di GPS e movimenti tracciabili delle persone, dei soggetti che compiono qualsiasi spostamento, sia dall'altra parte a un livello più intimo e creativo, per cui di riuscire a sganciarsi da una dimensione che ci porta sempre in altri luoghi, sempre in altre ricerche o fuoriuscite ludiche, cazzeggi attraverso lo schermo dei nostri smartphone, per andare a vivere una dimensione relazionale sincronica nel qui ed ora. Per cui riprendersi questa dimensione incontrollabile del esserci nel momento, nel luogo, con le persone che sono lì con te. E quindi questo è una riflessione, ma è anche un invito, una ricerca, un'autocritica e una spinta a farlo insieme. Quindi questa è un pezzo portante della riflessione. Questa cosa qua del fatto di, diciamo, stavo parlando prima con Ugo, che è un amico di Salotto Masada, che era qua fino a pochi minuti fa, poi è dovuto andare via. Il fatto che in alcuni testi questa cosa del rifiuto dello strumento tecnico moderno o contemporaneo, che sia il telefono, il social, piuttosto che la paura del controllo delle macchine, del supercomputer quantistico, ritorna molto spesso. E questa dinamica del, purtroppo talvolta diventa anche, forse nel tuo testo un po' meno, però in altri sì, era meglio prima. Era meglio prima quando la politica la facevi col volantinaggio, era meglio prima quando la gente non ascoltava le TV, era meglio prima quando non avevi il telefono, non c'erano i social. Ed è una cosa che a me personalmente un po' stride, perché tutte le volte che da persone di sinistra progressiste o persone che vogliono vedere un futuro possibile migliore si dice, si inizia a dire o si inizia a intendere o si inizia ad avere quel tono per cui era meglio prima, secondo me già qualcosa non funziona. C'è già qualcosa di quel pensiero che è stato realmente dei movimenti rivoluzionari, cioè quello che c'è adesso in futuro può essere la nostra salvezza, quindi le macchine non sono, come pensavano i luddisti, i nostri problemi, le macchine sono la liberazione dal lavoro, perché così possiamo smettere di lavorare, proprietà condivisa dei mezzi di produzione, lavoreremo meno tutti quanti, lavoreremo meglio e avremo una vita migliore. E invece quando si inizia a fare quella cosa lì di dire era meglio prima, la vita di oggi non ci piace più, vogliamo tornare indietro, si diventa per me autenticamente reazionari. Vedere questa cosa all'interno di questi racconti ogni tanto mi ha un attimo spiazzato, perché dicevo, ma veramente è un pensiero rivoluzionario questa cosa? Poi magari sono un po' acido, però. Guarda, è uno stimolo importante questo che porti, e l'altra faccia all'interno del racconto portava a dire fruiamo, utilizziamo, ma in maniera consapevole e collettiva, di quelle che sono le possibilità tecnologiche e dei media, dei social media. E un po' lo stimolo è a riportare anche cioè l'idea, quando è arrivato internet lo si vedeva anche come una grande possibilità, perché non viveva ancora del livello di commercializzazione che c'è adesso. Chiaramente arriva da un'infrastruttura militare di partenza, però come poi possibilità tecnologica è estremamente importante. Quindi stare nel presente vuol dire anche mettercisi dentro e trovare territori e modalità di utilizzo che siano da una parte utilizzando non rimanendo fuori, però con uno sguardo estremamente critico e avere la capacità di un cut-off di dire ok, ora è il momento di chiuderlo fuori da questo momento della mia esistenza, che è un po' il problema reale di un conglomerarsi insieme allo strumento. Infatti, su una nota meno politica, tu hai nel racconto c'è una canzone e c'è il testo di questa canzone che si chiama Diaspora. Ecco, io ero curiosa di questa canzone, visto che poi ci hai anche inviato un file audio che doveva suonare la canzone. E qui arriva la domanda un po' anche, ma l'hai fatta apposta? A lasciarla in silenzio? Che era totalmente silenziosa? O cioè era all'interno del ragionamento del racconto o era appunto un errore mio da boomer? Perché questo no, devo chiederlo. Ovviamente era un artificio per spingervi a immaginare come sarebbe potuto essere il suono di tale pezzo. No, in realtà cazzata, in realtà doveva esserci, per cui... O magari pensavi, dai, e mo c'avete il testo, cantateci sopra e create il vostro provate. Beat a casa. Sì, esatto. Nei gialli c'è l'assassino che ammazza la vittima, ma c'è un elemento della scenografia che è troppo realistico. Ah, nella scena, nel film gialli. No, allora, nel tuo testo, secondo me, è un'altra cosa molto interessante, in realtà la notava Miriam quando abbiamo parlato dei vari testi, è che c'è una parte che racconta la vita privata dei militanti, da cui per esempio anch'io avevo capito che evidentemente l'aveva scritto qualcuno che in quelle scene c'era stato veramente, o l'aveva vissute di striscio, perché alcune cose riportate erano veramente un po' come ci si sente, come si vive. In particolare c'è il rapporto privato tra due militanti che tornano a casa la notte dopo aver fatto tot azioni politiche e vivono anche il loro amore privato, la loro condivisione privata. C'è l'altro militante che è molto giovane, che ricorda il proprio passato, e quindi quella cosa lì del trovarsi a casa la sera dopo aver fatto tutto, avere ancora un incontro con la propria vita privata, a me piaceva molto. All'inizio questo concorso di letteratura, di scrittura, era anche un po' volto a quella cosa lì, cioè provare anche a coinvolgere, dopo tutto, militanti che avessero voglia di raccontare qualcosa che potesse piacere a loro. Cioè, se leggevi le prime tracce che non sono mai uscite, magari le pubblicheremo, diventeremo famosi e famose, erano estremamente puntati a un racconto militante, ad ottenere un racconto militante. E quindi niente, vabbè, insomma, era molto interessante vedere questa parte, perché era bello vedere anche lo spaccato sugli esseri umani che fanno poi la rivoluzione, che potrebbero fare la rivoluzione, che si organizzano per cercare di fare una rivoluzione. E secondo me ha scritto molto bene. Aveva ragione Miriam a farlo notare, perché era scritto molto bene. È scritto molto bene. Ma non lo so, allora Luca, se vuoi, o pausa cibo, perché molta gente ha fatto pausa cibo. Oppure, non so, vogliamo leggerlo? Io peccato ho paura di quanto ci si mette a leggerlo. Scegliamo delle pagine, se no leggiamo la prima pagina soltanto, se no vi faccio sentire il pezzo. Vai, facci sentire il pezzo. Vuoi cantarlo? Lo sai a memoria? Passo la traccia. Ah, ma ce l'hai veramente la traccia? Ha sbagliato, aveva sbagliato l'invio. Cos'era, un WAV, un MP3? Prima avevo tirato Se ce l'hai, come la raggiungiamo? Là. Come la raggiungiamo questa traccia? Non volevo usare il telefono, ma tocca. Vieni, se vuoi attacchiamo il telefono. L'ho capito adesso la battuta, perdonami, sarà caldo. Si vede che sarà la prossima volta, lo lasci a casa, non questa. Beh, buono, nel frattempo il popolo qua sta sfamando, tutto buono. Ma lo shot di vodka? Ma lo shot di vodka? Scusate, ma lascia. Norberto, ma la vodka? Ho urlato nel microfono. Chiedo scusa a Lorenzo se abbiamo urlato nel microfono. È al bar. Wow. Vabbè, domande invece. Vuoi attaccarlo? Vieni pure che ti mandiamo in mondovisione. letto, dentro mente di reietto. Una vista, una svista, una porzione di strada rimasta. Non resta mesta nel turbine d'uragano che sovrasta. Scorticate ellissi nella dimensione dell'eclissi, per esperire convulsioni nomadi contratte in epilessi. Catalessi, postuma all'inganno, di acronimo comando, scomposto di rimando, monatto appestatore di questo disinganno. Elaboro incoscienze di naufraghi, diaspore forzate per genealogie di profughi, contorsioni dentro i bunker con l'indisciplinato hacker. Per il knockdown non c'è più round, nell'antibios spazio solo per il countdown. Goccia d'acqua che trabocca, plasma con il plasma, una nuova condotta. Procacciatore d'ossigeno con rituale sacrilego, opposto al superego composto con il lego della trama di apparenze, nelle torbide sequenze di polveri sottili che ammorbano le coscienze. Alla sbarra chi sgarra, chi osa scava sottoterra, non prestarti al gioco verso un altro gioco di potere microfisico conducente a desiderio statico. Se ti trovi a cercare il termometro per calcolare la temperatura del baratro, è giunto il momento di accendere il fiammifero. Oltre il buio del prossimo cordoglio, oltre la luce che apparentemente illumina ma oltre modo abbaglia, stratifica la rabbia nella casba, cerchi di fuoco che fendano la prossima alba. Eccoci qua. Fatto. Allora, beh, complimenti. Ci siamo ascoltati il brano, che c'è tra l'altro il titolo, ho perso la pagina, però purtroppo, di Diaspora. Sì, oltre Coltrex. Ma Diaspora. Ma esiste veramente questo gruppo? Mister Onic? No. È una, cioè, è anche qua un'ispirazione. Questo pezzo è stato fatto in collaborazione con la Radon Squad, che è un collettivo che fa questo rap sperimentale matto e psicopatico, e che mi ha fornito anche i beat, questo post industrial molto sincopato, e niente, è stata una collaborazione fighissima. È stata la prima volta che mi sono messo al microfono a fare questa roba. Grande. Ho detto, vai, sfidiamoci anche su questa faccenda qua. Per questo concorso è iscritto, iniziato a cantare, poi vogliamo le royalties, sai, quando diventi famoso devi citarci. Ha iniziato tutto per colpa loro. No, questo qui è un pezzo che c'era. Ah, ok. C'ha un quinquennio almeno, e quindi ne ho attinto perché c'erano corpus per poi, che figo, inserire a livello narrativo. Che figo. Complimenti, bellissimo. Allora, il testo si chiama L'Hypomove, ve lo potete leggere perché abbiamo una stamperia amica che ci ha pure stampato in cartaceo, perché siamo del Novecento noi, almeno io sicuramente. C'è il testo, dopo ve lo leggerete. A questo punto io prendo da mangiare e lascio Laura, ma anche Luca se volete, a intervistare l'altro, a mangiare anche. Dai, andate a mangiare voi. Non mangia mai, si nutre di conoscenza. Vabbè, niente, l'altro autore si presenta, gli porto il microfono. Ciao. Immenso pubblico. Vabbè, niente, l'altro testo. Vai a prendere a mangiare. E invece no. Allora, l'altro testo di cui abbiamo l'autore si chiama Singolarità Collettiva, che è un concetto che secondo me comunque è stato rapinato a un videogioco. Adesso vediamo se è vero o non è vero. E basta, prego, ce ne parli, dottore. Buongiorno, a me dispiace perché sono molto meno interattivo del precedente racconto, non posso portare nulla di così potente. No, mi dispiace, non mi manca il rap. No, in realtà una cosa che diceva prima lo speaker di cui adesso mi sfugge il nome, è dell'utilizzo della tecnologia. In realtà il... Per favore. No, la cosa che dicevi prima sulla tecnologia, del fatto che c'è un po' di reazionismo, di vedere la tecnologia come se fosse un demonio che ha sconfitto, quando una volta le cose si facevano per bene ed era tutta campagna, e che invece è molto interessante perché in realtà la tecnologia offre un sacco di concetti sul futuro, sulla sua evoluzione, che possono essere di ispirazione e che sono molto interessanti da qualche punto di vista, anche proprio di motivazione, di immaginare un mondo senza lavori faticosi, o ma anche proprio di filosofia pura, dato che comunque gli scienziati ci prendono a piene mani dalla filosofia. Per esempio, un social network molto famoso tipo Facebook, Zuckerberg in un'intervista ha ammesso che ha letto una cosa tipo il libro che ha ispirato Blade Runner, tipo gli androidi sognano pecore elettriche, se non ricordo male. E lui si era immaginato, cioè le cose partono anche da ispirazioni culturali. E a me piaceva ribaltare un po' il concetto di singolarità scientifica, che di solito è associato a due cose principalmente: all'astrofisica, quindi i buchi neri eccetera, le leggi della fisica che vanno a quel paese, oppure alla singolarità dell'intelligenza artificiale, cioè il momento in cui l'intelligenza artificiale sarà intelligente quanto la razza umana, cioè quanto un essere umano. E ovviamente adesso l'intelligenza artificiale è un discorso molto molto politico. Vedi? Molto politicizzato, in mano a pochissime aziende che stanno facendo delle cose troppo positive con l'intelligenza artificiale. Di fatto l'intelligenza artificiale in realtà è una stronzata, nel senso, chiamarla intelligenza è di fatto marketing, perché non è intelligente l'intelligenza artificiale. ChatGPT eccetera sono delle funzioni di fretta, no, è una funzione di probabilità. Lui ti associa la parola che c'è dopo, ma non è un computer, cioè non è nemmeno un computer, è una funzione proprio. Cioè un computer ha un hard disk, invece ChatGPT fondamentalmente è una funzione che viene, un programma che viene lanciato. E questa cosa della singolarità l'ho voluta spostare dal punto di vista scientifico, e la cosa che quindi tecnicamente mi faceva rientrare nel concorso che avete condiviso è il fatto di riappropriarsi dei concetti sul futuro. Cioè la singolarità scientifica dovrebbe portare un mondo di pace in cui tutti i problemi vengono risolti istantaneamente, non ci sono più blackout, perché tutto quello che può essere imprevisto può essere previsto. In realtà è una cosa fortemente politica, che non è assolutamente in mano delle persone normali o delle persone in difficoltà, degli oppressi. E quindi, dato che quella strada è un po' difficile, la singolarità è empatica, quindi vuol dire quando gli esseri umani riescono a superare se stessi, e quindi non c'è bisogno, non è che non ci sia bisogno della macchina, ma prima di tutto bisogna superare, cioè come esseri umani dobbiamo superare la nostra singolarità, il nostro individualismo. E quindi tutto così, poi ci ho messo degli obelischi che esplodono, per cui comunque è stato divertente. C'era anche un po' di divertimento. Curioso pensare che una delle poche cose che non ho mai visto nella vita, che è un obelisco, è quello di Piazza Cinque Giornate. Ma guarda che l'ispirazione è curioso, che questo autore ha comunque dei riferimenti enti culturali molto simili ai suoi. È strano, dopo ti chiedo il CAP per vedere dove sei cresciuto. Dove sei la residenza? Giambellino. No, e poi volevo citare questa cosa, magari anche per i presenti, questo libro davvero molto bello, che fa la cosa che fa questo concorso, ma in maniera più professionale, per quanto mi riguarda, naturalmente. Fa il libro? No, il libro fa quello che avete cercato di fare voi con questo concorso. Cioè, fa la stessa idea, che si chiama Il Ministero per il Futuro, del Futuro, che è un libro davvero molto figo perché è fantapolitica. Ma è tutto molto particolareggiato, nel senso che ci sono interi capitoli che spiegano come potrebbe funzionare un'economia che davvero supera il capitalismo, non nella modalità di Marx magari, ma comunque che cambia radicalmente, ed è molto, molto realistico. Ci sono proprio dei passaggi di avvenimenti, di possibili disastri climatici, di sconvolgimenti geopolitici. Ovviamente un romanzo, per cui per esempio un romanzo, ma è molto figo perché secondo me fa sbloccare un interruttore della propria mente, che purtroppo magari molte persone non hanno idea nemmeno che esista, il fatto che il mondo che esiste non è perfetto e quindi è fondamentalmente sovvertibile. E niente, quello è molto molto figo, ed è un romanzo comunque abbastanza leggero, c'è anche una bella storia d'amore eccetera. Sono in Svizzera, pittoresco. Ah, pure Svizzera. È Peter, è pittoresco. Sì. Beh, è l'ONU, quindi. Irene, cosa ne pensiamo noi delle ipotesi sul futuro non marxiste? Ha detto di no, No. Se non è marxismo non fa per me, così ha detto. Ha detto così, l'ho sentita benissimo. No, secondo me c'era una cosa interessante di quello che dicevi, che riguarda il fatto che alla fine della fiera si possono avere un sacco di... Che in parte, secondo me, forse l'altra faccia del discorso. Se è vero che le innovazioni tecnologiche possono fare il bene delle persone, è anche vero che il problema non sono le innovazioni tecnologiche o gli strumenti, ma è chi li usa, come li usa. E quindi il problema è che se permane un concetto di individualismo, che poi in realtà non è sempre esistito, è iniziato a esistere nella nostra società occidentale, nei paesi Francia, Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, Portogallo, cioè del blocco occidentale attaccato agli Stati Uniti d'America, quando è venuta fuori una persona che si chiamava Margaret Thatcher, quando è venuto fuori forse addirittura Nixon, era? Sì. Era Nixon insieme alla Thatcher, che ha iniziato ad affermare Reagan, che era più importante l'individuo della società, è lì negli anni 80 che si è creato ciò che adesso noi viviamo quotidianamente come iperdominio del concetto di avere se stessi davanti agli altri e alle altre, e regredendo da quella cosa o cancellando quella cosa o superando quella cosa, che si potrebbe veramente avere un pensiero rivoluzionario e magari utilizzare il calcolo probabilistico delle parole, che a quanto punto abbiamo oggi scoperto che c'è un ingegnere che funziona così, potremmo avere, cioè, veramente forse una vita migliore, ma dietro ci deve essere qualcuno che la usa per il bene delle persone, non per guadagnarci 5 centesimi in più ogni transazione economica. No, ma cioè, quello che dici è assolutamente verissimo, ma quello che volevo fare era una cosa anche molto più subdola, ossia prendere quello che comunque rimane, e tutti quanti, per quanto possiamo essere schierati politicamente, è un po' la fiducia nella tecnologia in cui siamo immersi, ed è che è anche molto vera, senza la medicina, tante altre cose, siamo comunque nel mondo occidentale e abbiamo delle possibilità che fino a 100 anni fa sembravano impensabili su certe cose, ed è comunque una fiducia che è trasversale nelle persone, nel senso che adesso sì, le persone sono preoccupate dei social network, va benissimo, è giustissimo, ma c'è comunque una sorta di positivismo verso la tecnologia, e a rubarci quel positivismo, quella fiducia nella tecnologia, e trasportarla sul fatto che l'evoluzione della società umana debba essere di pari passo, cioè non ci si può accettare il fatto che oggi stiamo peggio di quanto stavamo ieri, che è un po' quello che tu si aspetti dalla tecnologia, perché la tecnologia deve essere sempre migliore di quella che è stata prima, in qualche modo più efficiente, più veloce, eccetera eccetera eccetera. E c'è un sacco di entusiasmo, in realtà un sacco di curiosità, che comunque dato che la tecnologia è politica, perché tutto è politica, in realtà potrebbe insomma avvicinare tante persone, tra cui questi ingegneri di cui parlavi prima, per cui in realtà le cose scientifiche in realtà sono un grosso portale, se si vuole, per quello che si può fare, cioè anche una missione, senza dire migliorare il mondo attraverso la tecnologia. Il problema è che purtroppo si gestisce queste cose come compartimenti stagni. Io volevo leggere una parte del racconto. Ah, ok. Che tocca proprio questa cosa, quindi guarda caso l'avevo evidenziata perché mi era piaciuta. Qui c'è del professionismo. C'è del professionismo. Sì, no, nel senso che è vero, cioè, anche il racconto Lipa Move, alla fine c'era la dimensione anche molto di riappropriarsi di quello che circonda, che comunque le cose si muovono, ma non in contesti che scegliamo, no? Quindi non possiamo per forza avere il mondo perfetto. E quindi ci si riappropria di queste tecnologie. E a me la cosa che è più piaciuta è che tu la metti anche sul piano emotivo. Cioè, a un certo punto è come se le persone realizzassero che hanno bisogno di stare insieme e di unirsi, però non arriva in un modo meccanicissimo, almeno dalla mia lettura, poi non lo so. Quindi mi è piaciuta questa cosa che hai proprio chiamato anche la singolarità empatica, cioè uno sviluppa un'empatia verso se stessi e gli altri e inizia a rimmaginare l'economia. Così. Ok, no, il punto, la parte che avevo visto era questa. Finché la tecnologia e con lei lo sviluppo economico fosse rimasta in mano all'ideologia basata sull'incontestabile riduzione di costi, non avrebbe mai potuto aiutare lo sviluppo di qualcosa capace di generare dignità. Per scampare ad un'apocalisse, a tutte le apocalissi, serviva un'altra scoperta in grado di creare punto di discontinuità, d'eccezione, un salto in grado di rendere incontestabili la solidarietà e dignità nella scala di valori della società. Bisognava raggiungere la singolarità collettiva. Senza di essa, se non si fosse andato oltre alla tecnologia come strumento per produrre di più e più in fretta, l'unico futuro possibile sarebbe stato costellato di deserti di respirazione, foreste bruciate, inondazioni, milioni se non miliardi di persone in marcia in guerra per la fame e per la disperazione. Bello. Oltre la tecnologia. Bello. No. E poi se posso aggiungere un'altra cosa, poi mi zittisco. Il fatto della tecnologia, che ci sia tecnologia in realtà, per quanto ovviamente il mio racconto sia molto un poco meccanico, come ho detto in maniera molto elegante, secondo me è molto interessante, perché in realtà nessuno si aspetta mai nella storia uno sconvolgimento, un cambio di paradigma, ma in realtà avviene, per cui il fatto è che domani, speriamo di no, scoppi la terza guerra mondiale, fa dello scoppio della prima e seconda guerra mondiale delle cose vetuste. Cioè la gente non reagirà nello stesso modo ed è probabilmente lo saprà molto più in fretta, in una maniera molto più precisa. E quindi non è che probabilmente la guerra, possibile guerra, possibile conflitto, si autoannulla per questa cosa, ma comunque apre delle possibilità che erano impensabili. E questa è una cosa che ho cercato di scrivere, cioè un po' immaginare nel mio racconto. Il fatto è che la tecnologia comunque, per forza di cosa, rimescherà le carte, in qualsiasi modo, ed è divertente giocarci su, ma soprattutto sarà divertente vedere cosa ci giocherà, come succederà. Spiamo bene. Vedere che Israele sta finendo i missili di Iron Dome, quindi non lo potevi sapere, vent'anni fa. È andata così, è andata così. Va bene, allora secondo me abbiamo mangiato, bevuto, abbiamo presentato i racconti con i predettori, i due autori presenti. No, abbiamo un commento. Adesso tocca fare i reati. Tra l'altro è proprio vero, in molti di questi racconti ci sono dei reati, molto spesso. Oh no! Nessuno ci sono, ma un po' edulcorati, non si vedono, ma comunque ci sono robe che prendono. Ci sono cose che prendono fuoco, infatti, ma l'ho detto. Beh, cioè, lui ci mancava soltanto. Non volevo offendere Valditara, lo ammetto. Una vetrina ancora un po'. Non volevo offendere Valditara, lo ammetto. Esatto. Va bene, secondo me adesso Laura ci deve annunciare la annosa questione di quali sono per noi i racconti vincitori. Allora, sì, vabbè, aspetta, perché abbiamo né. Ci sono dei commenti dagli altri componenti della giuria che sono Ciao. Quelli che vediamo, però sono qui. Ah, io li voglio, no, voglio. Volevano mandare un messaggio, quindi io prima leggo il loro messaggio. Fate schifo, madonna ci mia! Ci hanno scritto e non potevano essere presenti causa scioperi da un lato e esami di laurea. È soltanto una pagina con scritto rumori di vomito. Allora, uno dei commenti è: ci preme dirvi, o meglio, scrivere nei vostri cuori, molto poetico, che questo premio è di tutte e per tutte quante, perché vincere l'inerzia del non scrivere, del non lasciare un segno, del non aprire porte, ha in sé la promessa della rivoluzione che verrà. Ora tocca a voi condividere alle persone, convincere altre persone a scrivere per lasciare aperte le porte dell'immaginazione che altre sceglieranno di varcare. E fare della parola un incantesimo per disinnescare bombe, creare ponti, sgambettare potenti. Sono dei commenti di Gennaro Ascione che salutiamo, ma non è in diretta, vero? No, in diretta. Ah, grande. E quindi bello, bellissimo, perché effettivamente anche mettersi a scrivere può essere un po' difficile per molti di noi. E poi un'altra seconda riflessione e un saluto. Quando si chiede di pensare al futuro, soprattutto tramite una storia, è quasi naturale immaginare una distopia, disegnare a tinte cupe come tutto può andare per forza male, che è quello che stavamo a dire prima. In questo concorso invece abbiamo chiesto proprio il contrario, abbiamo chiesto come le cose possono andare bene alla grande. Ovviamente però questa è la sfida più difficile, perché si tratta di reimmaginare il mondo, di trovare nuove forme di vivere comune, si tratta di immaginare un argine di resistenza. Sarà che sono una scrittrice e una editor, vivo tutto il giorno a contatto con le parole, ma sono convinta che per cominciare a immaginare un mondo che non c'è, è importante cominciare a scriverlo. Le parole sono le nostre barricate, sono il luogo in cui possiamo incontrare l'altro, anche in assenza di corpo, anche a distanza di anni. Si tratta di una forma reale di telepatia. Le parole sono quello che viene tolto quando si vuole ridurre il pensiero. In questo Orwell e la neolingua del 1984 sono un insegnamento importantissimo. E qui, con questo concorso, le parole sono state al centro di tutto. Quindi innanzitutto vi ringraziamo di averle condivise con noi. Ciao Chiara. Visto che abbiamo letto e apprezzato i vostri racconti, sarebbe interessante provare a tirare le fila di un discorso unico che sembrano disegnare. Per la maggioranza si tratta di un'ambientazione futuristica simile a quella che vediamo nelle serie TV o che abbiamo letto nei libri che tutte e tutti noi amiamo, ma c'è un filo sottile che in realtà la cosa più vera e più importante, l'interconnessione. In quasi tutti i testi la chiave della rivoluzione è nell'unione, nella vicinanza, nella riscoperta dell'altra persona. Vi abbiamo ascoltate, avete portato voci molto diverse, sperimentazioni o storie più lineari, e grazie, perché da qui possiamo ricominciare. Baci. Quindi alla giuria siete piaciuti tutti, presenti e non presenti, tanti autori e autrici che mancano, E anche a noi tanto, ci siamo divertiti a leggerli. E adesso vorremmo fare appunto, vogliamo dire il premio? Allora, iniziamo dal premio. Il premio sarà la pubblicazione di tutti i racconti vincenti sulla rivista della Corte dei Miracoli, che si chiama La Tigre di Carta, che ha una versione online dove c'è una sezione, insomma, racconti e blog, eccetera. Questo dovreste iscritto nel concorso alla Pubblicità. Ma non c'è tempo ancora. Sì, è stato in itinere. E poi volevamo anche testare... È come Benvenuto Mori, è l'inizio che parte dalla... Però è stato anche bello vedere che non c'è per forza bisogno di un incentivo finale per fare le cose, quindi ci stava, dai. E quindi questi tre racconti verranno pubblicati lì, probabilmente anche con delle modifiche, se va accorciato un po', visto un po', eccetera. E poi vi invitiamo alle future edizioni, insomma, vediamo come andrà. Se gli altri racconti anche vogliono trovare un canale, capiamo. Okay. I vincitori sono quindi tre racconti, tutti uguale livello, nessuno è, cioè, nel senso... Abbiamo scelto di premiare tre cose, non di fare una graduatoria. Pari merito vincitori. La competizione. E li annunciamo proprio così. Va bene. Allora, il caso ha voluto che, insomma, tra le poche presenze ci fossero due vincitori. L'autore di Singolarità Empatiche, Giulio Corradi, auguri. Grazie. Non faremo mai gli Oscar. Poi Un aiuto dal domani di Jack Campo, che salutiamo a distanza. Bravo Jack. Molto bello anche il racconto di Jack. Non ne abbiamo parlato, magari ne parliamo. Lo facciamo dopo. E l'IPA Move di CRDZ. Quindi è abbastanza peculiare che appunto su tre vincenti, fortunatamente, voi due vi siete sentiti attratti dalla cosa. Dopo ti do i 50 euro comunque. Avete speso 15 per una maglietta. Stonics. Quindi sì, augurissimi ai vincitori. E avanti tutta con i prossimi. Grazie. Allora, io adesso direi che ci facciamo un po' di mangiare musica e poi, se vogliamo, leggiamo un racconto, proprio se ci sale la gallina, vero Greta? Ci sale la gallina, ci leggiamo un racconto. Ma non potete parlarci un attimo del terzo racconto? Sì. Terzo racconto, Vai, un altro domani. Un altro domani? Ah, qual è l'altro domani? Su 12 c'era difficile. Un altro domani dice... È la lettera. No, un aiuto, scusa, l'ho detto. Aiuto. Un aiuto al domani. È la lettera. Della mamma. Anzi, no. il racconto. Sì, il racconto, però non era la lettera. Ah, sì, una lettera. No, la lettera è L. Sì. È un racconto molto bello. È appunto. Era uno dei miei preferiti, sì, perché era molto introspettivo, ma anche molto propositivo. Quindi, cioè, la persona ha cercato, secondo me, davvero di trasformare l'esperienza in un consiglio, e diceva più volte che ci teneva a comunicare questi messaggi, e parla di un futuro in cui c'è un autoritarismo totale, a tal punto che appunto dalla popolazione vengono eliminate delle determinate persone considerate sbagliate nella società. E il racconto è di questa madre che racconta cosa è successo appunto a suo figlio, e quindi non vorrei fare troppo spoiler, non lo so. Però racconta le sue pratiche di resistenza, utilizzando anche lei la tecnologia, per sostituire, lo diciamo? No, lasciamo tranquillamente. Per salvare suo figlio. No, qui secondo me il tema interessante del racconto è quello del tradimento, cioè laddove c'è un sistema perfetto che ormai ha completamente incapsulato, bloccato, distrutto qualsiasi possibilità di ribellione, ciò che rimane è il tradimento di questo sistema da parte di chi ne fa parte, quando questo sistema va a schiantarsi contro le cose più basilari dell'essere umano, come nell'esempio di questo racconto, il rapporto tra una madre e un figlio. C'è un momento in cui il sistema ti chiede di essere disumano, Vabbè, poi ci sarebbe da parlare di tutto ciò che riguarda il fatto che è molto umano avere delle opinioni differenti, è molto umano avere un'area di confronto e di conflitto che non deve per forza terminare con l'annientamento dell'altro, perché l'altro da noi non è soltanto un nemico, un problema, è anche un momento di un luogo di l'incontro, un luogo di arricchimento personale. Appunto, c'è questa cosa che comunque si può sempre riuscire a fare una piccola rivoluzione se ci si sottrae e se si lotta contro il sistema che esiste, che sembra essere così perfetto e imbattibile. E a riguardo di questo, peraltro, c'era una, a un certo punto, che ne parlava prima Giulio riguardo al suo racconto. In alcuni testi, secondo me, emerge il fatto che tutto questo sistema di controllo è imperituro, immortale, sarà così per forza, così come anche la cosa che diceva prima Giulio riguardo al fatto che il cammino della tecnologia ci ha regalato l'illusione che necessariamente domani sarà meglio di oggi, perché domani avremo più mezzi tecnici, più strumenti per affrontare la nostra quotidianità. Questa cosa qua probabilmente è vera negli ultimi secoli, probabilmente è vera sempre, perché la gente viveva in capanne fatte di paglia, poi ha inventato il cemento, poi ha inventato altri modi per vivere ancora, e qui ci sarebbe tutta l'enorme discussione su che cosa è moderno e va bene, perché le case in cemento inquinano un sacco e dopo 60 anni si sgretolano, quindi forse erano meglio le case di pietra che facevano nel 1200 ammucchiando i sassi che sono ancora lì, ma vabbè. Però diciamo che bisognerebbe sempre ricordarsi che siamo soltanto in un'epoca della storia, e c'è una cosa, l'ultima frase del racconto sulla singolarità empatica, che riguarda il fatto che dice espressamente la storia non è finita. Cioè, il grave problema del mondo occidentale ad oggi è quel maledettissimo articolo di Fukuyama, la fine della storia, col crollo dell'Unione Sovietica è completamente concluso il cammino dell'essere umano nella ricerca, nel confronto, nel conflitto tra sistemi politici differenti. L'unica cosa che esiste è il capitalismo di libero mercato in democrazia rappresentativa, possibilmente con dei candidati maschi e bianchi, e lì è finita la storia. Nella realtà dei fatti non è così, e quindi le cose cambiano e cambieranno per forza. Siamo soltanto noi che in questo momento storico, negli ultimi 30 anni, siamo riusciti a raccontarci particolarmente bene che questo sistema è imperitura immortale, ma così non è. E per concludere la povera battuta, in questo testo c'è una possibilità, l'ultima, probabilmente la più primitiva, la secessione, il tradimento, l'allontanamento, il disgregare dall'interno il sistema di potere quando ti chiede di essere disumano e consegnare tuo figlio al sistema perché lo uccida, perché non sta più all'interno delle regole. Se non sbaglio... vabbè, fa niente. No, è quello che gli chiedono di fare, poi chissà cosa succede. Insomma, secondo me è interessante perché mette lì, c'è una possibilità. C'è stato un grosso conflitto rispetto al come attribuire la vittoria di questo concorso, perché il confronto con i giurati è stato complesso, nel senso che noi avevamo i nostri parametri e noi volevamo ottenere veramente l'agenda o le suggerimenti, i nuovi tips per fare la rivoluzione. E quindi magari io personalmente, proprio parlo, magari le altre compagne della commissione diranno la propria, guardavo molto al contenuto politico, è per quello che l'IPAMUV ci piaceva tanto la singolarità empatica, ci piaceva tanto il bene comune. Ci sono anche stati testi che non sono stati presentati perché hanno passato enormemente il termine, il quantitativo di battute che era stato chiesto, che però avevano delle cose in sé interessanti. Invece molte cose proposte, molti dei testi proposti preferiti dai giurati, dalle giurate della nostra giuria, erano invece giustamente magari letterariamente più interessanti, ma anche umanamente raccontavano di più. C'è un testo o altro che trovate secondo me se avete voglia di sfogliarvi la piccola stampa, che si intitola L, che è tutta una lunga lettera, una corrispondenza, diciamo, sì, una lettera che viene consegnata a questa compagna L, nella quale si racconta la storia del movimento rivoluzionario, che però è stato invalidato da questa stessa L, leader del movimento, in base alle proprie mancanze private, in base alle proprie difficoltà personali. Quando questa persona ha a che fare con la gelosia, quando questa persona ha a che fare col potere, quando questa persona ha a che fare con l'invidia, va a inficiare il cammino del proprio gruppo perché aveva bisogno di mostrare sé. E questa compagna che nella finzione del racconto gli scrive la lettera, gli fa notare tutte queste pesantezze, queste mancanze. Ed è uno dei motivi per cui prima parlavo del fatto che in tanti di questi racconti c'è moltissimo questo presentare il tema del conflitto dei leader, delle leader, dei leader, dei movimenti rivoluzionari rispetto ai propri gruppi, ma anche rispetto al loro ruolo. E cioè, tendenzialmente, prima ne scherzavo con Luca, questo maledetto andazzo all'anarchia e all'orizzontalità, che secondo me molte volte è un po' un mito, un po' una roba così da capirsi bene, perché talvolta è un po' così, secondo me è un po' una cosa che funziona nei racconti, poi quando si esce nella realtà i gruppi umani, soprattutto i gruppi di lavoro, funzionano in altri modi e bisognerebbe un po' domandarselo quanto e come veramente l'orizzontalità è utile, non è utile, la vogliamo, non la vogliamo, serve, non serve, perché ci sono più gradi da considerare. Ecco, il conflitto verso la figura del leader, il conflitto verso la fine paradossale degli scopi rivoluzionari, per cui un po' come nella rivoluzione francese, un po' come nella rivoluzione russa, quello che va a fare la rivoluzione poi è replicare un sistema di dominio di colore diverso, di ideali diversi, formali, di intenzioni, ma che poi in realtà fagocitano se stesse, è molto presente, ce ne sono tre o quattro di racconti che fanno questo. E poi vabbè, quello che dicevamo prima, tutto il rapporto conflittuale con la tecnologia, le nuove tecnologie, i social, la connessione tra le persone. Ecco, una cosa che veniva letto nei ringraziamenti fatti dai vari autori era che vabbè, giustamente, ovviamente, in tutti i racconti c'è una grandissima riscoperta dello stare insieme, una grandissima riscoperta del fatto che la rivoluzione si fa soltanto se le persone tornano a incontrarsi, perché ora ci si sente evidentemente tutti a spasso, disgregati, soli, sole, senza contatto con le altre persone. E questa cosa qua sicuramente è una cosa su cui riflettere, perché evidentemente oltre che un problema è proprio un sentito. Ma è vero, cioè, torna al discorso che faceva prima Giulio sull'individualismo, una società che per 30 anni ha raccontato, soprattutto a chi stava nascendo, che l'unica cosa necessaria da fare era perseguire la propria felicità davanti a tutti, raga, secondo me ce lo troviamo nei nostri rapporti di coppia, dove uno non ascolta l'altro o l'altra perché mette prima i propri bisogni, non lo troviamo nei gruppi perché la gente fa fatica a stare nei gruppi, perché i gruppi ti chiedono di farti da parte, almeno in parte, scusate, gioco di parole, per riuscire a costruire qualcosa di più grande, si fa fatica a mettere da parte i gruppi nelle reti, per cui si bisogna sempre più primeggiare come gruppo singolo all'interno di un contesto più ampio, e poi va a finire che non si combina niente perché siamo tutti frantumati nelle nostre identità singole e non ci sono progetti collettivi, non ci sono contenuti collettivi più ampi. E questa cosa lo diceva anche Marrakesh, credo, alla fine di Cosplayer. Adesso, se volete, un'altra volta la mettiamo subito, così ci arriviamo. Sono arrivati degli autori, forse, dei cose. C'era lo sciopero, vero? C'era lo sciopero? Figa, però è 7:30. Meno male che abbiamo iniziato all'8:30, perché sennò ero in ritardo. Vabbè, allora niente, guarda. Adesso, mentre io prendo da mangiare, se avete voglia, venite qui, ci parlate del vostro testo, così, pronti via, senza neanche avere il tempo di avere timore. Qual era il vostro testo? Qual era il tuo testo? Con calma, ma niente, se qualcuno vuole, stavamo riassumendo un po' i racconti. Esatto, vuoi fare un altro, raccontare un altro racconto? Cosa vuoi te? Una pausa musicale? Facciamo una pausa musicale? No, sì, dai. Secondo me, non so se poi si riesce a tornare indietro alla pausa musicale con l'attenzione, ma ci proveremo, dai. Una canzone una, sì, questo lo dici tu.

here until he started to dance with you. This always seems to happen when we go out. straight back to the British Bulldog Bar. Allora, sì, stavo guardando. È aperto? Vai, vai, tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Ok, allora dopo questa pausa musicale tipo radio, che è, e siamo arrivati al racconto Fulcar. Sì. 2105. È un bel racconto, ci è piaciuto tanto anche lui. In realtà era... Tu sei arrivato adesso, però abbiamo già premiato i racconti. I racconti vincenti sono Un aiuto dal domani di Jack Campo, Singolarità empatiche di Giulio, che è appena uscito, e Lipa Move di Luca. E quindi questi sono i racconti che sono stati premiati per una pubblicazione in una rivista online che si chiama La Carta di Tigre ed è della Corte dei Miracoli. Non so se conosci... Vabbè, è un circolo molto carino e fanno un bel progetto di letteratura. Insomma, ciostante, comunque questi tre racconti vincenti sono alcuni tra i tanti, perché comunque ce ne sono piaciuti tanti. E quindi niente, Fulcar era tra questi, racconta una bella lotta. Sì. Adesso ci racconterai meglio, una lotta molto diretta, frontale, in un mondo dove c'è un occhio cibernetico che... riuscito a controllare gran parte delle attività di tutti, e effettivamente è una lotta di classe in azione quello che racconti. Quindi vai, raccontaci di più, presentati sì. Se vuoi. Mi chiamo Michele, vengo da Crema. Infatti Fulcar è niente meno che il nome antico di Crema, perché il nome di Crema sarebbe Fulcheria, il nome antico è Fulcar addirittura, che era, quando era ancora un posto barbarico, diciamo. E Fulcar 2105 praticamente richiama appunto un po' questo neo medioevo, è un medioevo, come dire, diciamo un po' cyberpunk, diciamo. Praticamente c'è stato per farla molto breve, c'è stato un collasso degli stati nazione e si è ritornato un po' a un periodo di città-stati, protettorati, insomma, comunque un potere diretto non più dagli stati in azione come li conosciamo oggi, ma magari da consorzi di industriali, di agrari, oppure comunità magari che vivono nell'illegittimità, magari di banditi, nei boschi, nelle campagne. Insomma, infatti proprio la città di Fulcar, che poi vabbè, non è niente meno che Crema, è ambientata appunto nel nord-ovest del protettorato della regione Cisalpina, quindi siamo proprio ritornati proprio all'epoca tipo... Neanche Lombardia, non si parla anche di Lombardia, ma proprio di pianura padana, zona cisalpina. E niente, praticamente questo racconto in particolare descrive la lotta tra, come dire, potremmo definire il proletariato, quello provinciale comunque delle campagne, contro quella che diciamo è la, non è neanche più la borghesia, ma forse addirittura l'aristocrazia, l'elite proprio delle città, quindi il contado contro proprio il comune, la città-stato. Niente, quindi questo è la trama, comunque il contesto. Inizio magari a leggere, selezionare la parte, magari ho fatto alcune domande. Ah, beh, sì, sì, giusto per chiarire un po'. Sì. Esatto, praticamente il potere politico in questa società è ispirato più o meno alla, come dire, ai comuni, comunque, diciamo, medievali, comunque, del Rinascimento, quindi abbiamo più o meno la, come dire, il potere comunque dei, diciamo, dei magistrati, comunque quelli, adesso non mi viene il nome specifico, poi abbiamo appunto la figura dei capitani del popolo, che teoricamente dovrebbero essere i garanti comunque dei diritti, comunque della classe lavorativa e così, che però in questo caso, come si capisce dal racconto, sono controllati da un potere politico super elitario e classista, che quindi non garantisce realmente comunque la classe basse, diciamo. E i milites praticamente sono questo, diciamo, servizio d'ordine clandestino, diciamo, e invece gestiscono, sono tipo dei, come dire, sono i capitani del popolo e la guardia del popolo, se vogliamo per usare il termine come storico, però clandestina, perché comunque ma non so se voi lo sapete, comunque a Firenze c'era tipo la guardia del popolo che era diretta al capitano del popolo. E niente, quindi c'era questa situazione qua, e ci fu anche a un certo punto, anche mi sembra, una rivolta appunto del popolo magro contro il popolo grasso, perché comunque in queste corporazioni spesso c'era una forte, come dire, gerarchia, e spesso c'erano delle fenomeni anche di lotta di classe, diciamo, perché appunto il controllo di queste corporazioni voleva, cioè diciamo, i proletari volevano comunque diciamo prenderselo. E niente, quindi questa è più o meno la trama. Inizio allora già a scrivere una parte. Sì, va bene. Leggi una parte che ti piace. Allora, ma magari leggo tante parti, giusto per... va bene. Sì. Ah, ma sì, va bene. Ah, ok. Allora, Fulcar, distretto nord-ovest del protettorato regione Cisalpina e Padana, anno 2105. Cappucci, giacche nere di nylon, guanti di Kevlar, stivali di rigido cuoio nero, pantaloni da tuta da ginnastica che avevano sostituito da tempi pantaloni cargo mimetici di qualche anno fa. Questa era la divisa dei milites della milizia cittadina autonoma, senza distintivi, gradi, gonfaloni, uguali tra loro ma organizzati in una gerarchia invisibile, senza ufficiali, naturale e cooperativa, ad alcun tempo bestiale nell'azione, come un branco di lupi. La natura conosce gerarchia, non classi. Del resto era il motto che avevano votato nell'assemblea costitutiva. Rob H. Firefighter, in riferimento alla sua professione nella società civile, alla luce del sole passava con lo sguardo l'assembramento dei ragazzi accorsi quella sera per la ronda popolare, una trentina in tutto, tutti i giovani tra i 20 e i 30 anni, come lui del resto. Non era nemmeno tra i più anziani, c'erano anche un paio di ragazze. Lungo uno dei lati della via acciottolata, sotto le finestre ad inferriata dei palazzi centestri, un milite strappava i manifesti della municipalità repubblicana di Fulcar, targati dall'usuale leone di San Marco sotto il berretto frigio. Si impegnava a fare a pezzi la carta su cui era impresso il volto del nuovo capitano del popolo, Arrigo Dolphin, sorridente nella sua divisa verde militare coperta di medaglie, vittorioso dalle ultime elezioni dell'assemblea del popolo dei lavoratori. Almeno quelle che erano riconosciute dei pezzi di carta, certificati digitali e timbri del Consiglio cittadino, nelle aule asettiche in cui si tenevano assemblee. La legge razionale, tecnica, benedetta dagli algidi volti delle personificazioni angeliche e femminili delle statue della regione, della giustizia, dell'uguaglianza repubblicana in giro per la città. Ecco, per fare una pausa, praticamente i riferimenti qui comunque alla società del governo di Fulcar sono riferimenti appunto della Repubblica appunto Cisalpina, quindi è un potere che comunque almeno nell'apparenza ha, come dire, un aspetto molto razionalistico, è tipo proprio basato un po' sull'illuminismo, appunto il berretto frigio e così. Il leone di San Marco è appunto il riferimento alla Repubblica Veneta, quindi dal momento che lo Stato-Nazione non esiste più, questi nuovi sistemi si ispirano addirittura, come dire, a stati, come dire, pre-ottocenteschi, pre-novecenteschi. E quindi, infatti, a un certo punto, in una casa, uno dei simboli di questo potere di Fulcar, appunto, è il fascio littorio con il berretto frigio, ma non il fascio littorio, quello fascista come lo conosciamo noi, ma addirittura quello, cioè, di dirittà illuminista, perché comunque il fascio littorio era addirittura un simbolo illuminista ancora prima della sua storia, come la conosciamo. E niente, quindi questa è un po' un'introduzione. Allora, c'è poi una parte di lotta? Sì, adesso ci arriviamo, adesso magari leggo un po' di parti per spiegare un po' anche. Ok, allora, cosa potrei vedere? Allora, ok, beh, direi che possiamo iniziare a descrivere proprio la parte. Ok, ci misero circa 10 minuti ad arrivare alla barriera ZTL del borgo privato di San Pietro. Un'alta cancellata d'acciaio che arrivava quasi all'altezza dei tetti, intonacata di bianco, con filo spinato a lame di rasoio in cima e divieto di passo carrabile di fianco ad un'insegna di alluminio, ormai arrugginita ai bordi, portante lo stemma della municipalità che doveva essere di vecchia data, considerando che ancora era recata la diceria Crema in sulla Fulcheria, trasformata poi in Fulcar come più esotico riferimento al suo antico nome barbaro, scelto dai nei nuovi patrizi di sangue alpino, accompagnata dall'emblema del fascio littorio sormontato al berretto frigio. Beh, questa parte qui la possiamo anche saltare. Ma no, dai, diciamola. Ormai saturato a livello mediatico dall'associazione con il fascismo dopo il crollo, superamento, come i neoliberali lo chiamavano, degli stati-nazioni. Il simbolo era stato restituito alla precedente versione illuminista dell'elite degli oligarchi, i quali avevano ricostruito l'ordine e le municipalità delle democrazie illuminate, guidate da dirigenti tecnici e consorzi liberi imprenditori e lavoratori, sulle rovine della barbarie provinciale, subentrata al crollo dei governi centrali, a colpi di ufficiose, pompose leggi speciali ben più silenziose, crude operazioni di sicurezza, eseguite dalle compagnie militari private e squadre della morte negli angoli nascosti del sobborgo del Contado. Zona residenziale delle famiglie dei giureconsulti, senatori, gran fratelli dei collegi mercantili e finanziari, militari professionisti, le tre teste dei poteri della Repubblica Municipale, burocratico, finanziario e militare, rigidamente separate nelle sale del Consiglio Cittadino e della Cancelleria, ma felicemente riunite in una dimensione di promiscuità quotidiana, domestica, di conquilini di palazzo e vicini di casa. Ovattato giungeva anche all'esterno il rumore dei bassi delle casse elettroniche della festa. A colori rampolli dandy yuppie delle famiglie post-borghesi neo-aristocratiche, come li si voleva chiamare, erano passati dalla musica vaporwave di introduzione alla festa di gala all'Aus più rozzo. Del resto era una zona piuttosto giovanile, si potevano permettere di fare casino fino a tarda notte. Qualche risata sguaiata e battuta sbiascicata ogni tanto emergeva dalla copertura dei PPM stereo del DJ7. E adesso arriva la parte un po' più lunga di lotta che occuperà un po'. Sì, lo leggo quindi fino alla fine, magari, non so qual è il tempo. No, ma va bene. No, peccato che non leggerei tutto, ma magari è un po' lungo. Se vuoi leggerci una parte di quello che volevi leggerci. Ok, forse è meglio. Meglio passare direttamente magari allo scontro, che sarà meglio. Sì, allo scontro. Ok. Che poi avevamo anche delle domande. Ok. Ok, allora inizio. Tra chi ballava ai ritmi scanditi dal DJ e chi si abbuffava e beveva al buffet self-service, nessuno notò la loro presenza in quei pochi secondi tra il loro arrivo nel cortile e l'eruzione che sarebbe seguita. Priva del freddo, nessuno era fuori in giardino, nemmeno per fumare. Infatti, una porta finestra, quella centrale, era stata lasciata socchiusa proprio per favorire il cambio d'aria. I ragazzi della squadra la spalancarono, sbattendola con una tale furia da ridurre in frammenti diversi riquadri di vetro. Tra la musica assordante e l'intermittenza violenta del buio e luci laser dei mille colori, quasi nessuno, se non chi stava ai margini della massa dei convitati, si rese conto dell'arrivo degli ospiti inattesi. Persino quando i milites della squadra iniziarono a destare le catene, i tonfa, e ad abbattere sulla folla con pugni gomitate, qualcuno rimase a guardarli apatico, moderatamente perplesso, probabilmente obnubilato dalle droghe e dall'alcol. sorseggiato in bicchieri di vetro cisellato. Diversi invitati iniziarono a cadere sotto i colpi come bamboloni inaniati, altri vennero spinti e calpestati dai propri assalitori, oppure da altri convitati, accortisi del pericolo. In breve tempo la consapevolezza della situazione si fece largo tra gli invitati del festino, ad onde di concentriche di caos iniziarono a diffondersi nella molle massa infiltrata alla squadra dei militanti, che iniziarono a farla a pezzi dall'interno, aprendosi varchi di devastazione. Intanto la musica continuava interrotta come in un loop di suoni ossessivi ed elettrici, mentre i flash delle luci laser parevano far muovere i partecipanti della scena come marionette a scatti. Nella ressa Rob notò in una nitida istantanea Ogre ingozzarsi feroce ad un buffet di dolciumi. Gli sembrò di vedere anche un lembo di giacca di cotone nero pendergli dalla bocca. Tech, assieme ad un assistente munito di un amplificatore d'onde portatile, assieme ad un piccolo joystick, impugnava un jammer isolatorio in una mano a mo' di scettro, mentre l'altra brandiva un bastone a combattimento. I due percorsero a lenti passi i lati della sala, evitando di farsi trascinare la ressa, per mettere fuori gioco i sistemi d'allarme e videosorveglianza interni al palazzo. Con la potenza delle loro onde elettromagnetiche sarebbero bastati pochi secondi. Quando vi era silenzio, aguzzando l'udito, si poteva sentire il suono simile ad un lamento creato dalle onde di interferenza, in quel diabolico marchingegno assemblato con i pezzi di scarto di una discarica di hardware di un boschetto presso la zona industriale. In anni di raccolte, i loro alleati nomadi delle terre di nessuno del contado avevano saputo assemblare dei bei giocattolini, pur senza far parte delle cilde dei tecnici. Quando valutarono di aver finito, Tech e il suo amico riposero gli strumenti e le proprie giacche, per poi riprendere parte al gioco della mischia. Non tutti i rampolli, tuttavia, fecero travolgere il turbinio di corpi urlanti attorno a sé, estraendo tirapugni oppure brandendo i propri bastoni da passeggio, molti dei quali si rivelarono essere dei bastoni di acciaio estendibile o addirittura stiletti accuminati e lucidati dalle lame cisellate, raccogliendosi assieme ai propri amici in scogli d'opposizione in mezzo alla massa. I più sprovveduti cercavano insanguinati una via d'uscita dalla sala, ma la maggioranza degli invitati ormai era già a terra, rannicchiata su se stessa in preda alla paura, ricoperta di lividi e ferite e gli abiti laceri nascosta in qualche angolo dell'ampio salone. Un quartetto di militi aveva tagliato la via di fuga sulla scalinata di marmo, posizionandosi di fronte. Molto più incolumi erano le donne, non toccate dai maschi, accucciate in angoli del salone abbracciate l'una dall'altra, mentre l'esiguo gruppetto di ragazzi della squadra d'assalto lanciava grida di battaglia e incitamento come un'armata di erinni, collane ed orchini strappati ai lobi dei borghesi che indossavano rotolavano in mille pezzi il pavimento. Alcuni giovani borghesi, evidentemente più agguerriti della media, parevano divertiti e eccitati a quello che vedevano, interpretandolo come un giocoso imprevisto parte integrante della serata. Questi colpivano gli avversari che provavano a circondarli, aprendogli tagli e strappi nelle giacche con rapidi movimenti degli stiletti branditi come spade da scherma, o buttandoli a terra colpendoli alle gambe con agili colpi di bastone agli stinchi e alle caviglie, tentando poi di finirli con un colpo alla testa. Uno dei dandy più eleganti, il DJ, scese prontamente dall'altare della sua console. Egli era anche l'organizzatore della festa, indossava un gilet con un bascola francese in testa, e aveva baffi incerati a ricciolo, mentre tra le mani brandiva una frusta composta da un cavo d'acciaio flessibile, nascosta dentro un bastone a passeggio, con la quale riusciva a sfigurare sangue un militante mettendolo fuori gioco, e disarmarlo un secondo al bastone a combattimento colpendolo alla mano. Vado ancora avanti. Seditemi, se volete. C'erano delle cose che io volevo chiederti. Sì. Allora, perdonami, Guglielmo nel frattempo, ciao. Allora, secondo me il racconto è veramente interessante. In generale queste parti che tu hai letto secondo me sono molto belle, perché si passa da, sembra un po' un film di Tarantino con quelle cose belle, truculente, sanguinose, interessanti, così come anche un po' un anime di quelli un po' più taglienti, brutali, violenti, cattivi proprio, la gente che esplode, che si fa male moltissimo. Ed è verissimo quello che diceva prima Laura a riguardo del fatto che è proprio una scena di lotta di classe, come forse noi adesso non ne viviamo più, ma che forse una volta succedeva, che il padrone in fabbrica prendeva gli schiaffi, proprio erano gli schiaffi, oppure che in strada a un certo punto ci fossero quelli che camminavano col cilindro monocolo, saltava a fare qualcuno che invece se aveva perso una mano o il fratello era morto in fabbrica, e se le davano, così come viene raccontato così. E onestamente io pensavo proprio anche a questo, quando c'era stato l'idea di questo, quando abbiamo avuto l'idea di questo concorso di scrittura, mi piaceva che ci fossero anche racconti del genere, che provassero a riproporre la lotta di classe o in generale la lotta per un futuro migliore, anche partendo dall'aspetto più crudo. Ed è bello perché se fosse fatto nella realtà diventa un po' grottesco e forse anche un po' fuori luogo, perché certe cose non te le pensi a tavolino, a meno che non sia un mitomane che pensa che veramente puoi andare in giro con lo stiletto o la frusta nel bastone. Scriverli però sfoga un po' quella parte che secondo me c'è di oscurità e di malvagità, di cattiveria che si vuole mettere, perché obiettivamente se uno ci pensa andiamo tutti e tutte a lavorare, se tutti i giorni uno pensa che ci hanno rubato il 50% del nostro guadagno, poi dopo quella violenza che hai subito, che non si vede, che è silenziosa, che non parla, che non uccide nessuno, però un po' ti senti che ti ha rubato la vita. E allora quasi quasi la risposta che ti viene, dato che quello che hai sono le tue mani, i tuoi attrezzi da lavoro, la tua malignità, ti viene voglia di restituirlo. Per cui, cioè, è un testo che secondo me mette in luce un aspetto della rivoluzione possibile che tutto sommato ha il suo senso. Vabbè, prima del tuo arrivo abbiamo parlato tanto delle ambientazioni cyberpunk, di questa cosa comunque di vedere un futuro dove le cose, bene o male, sono andate comunque male. Per cui c'è stata questa regressione un po' adesso mentre ti sentivo che ne parlavi, soprattutto per questo riferimento a Crema che non avevo capito assolutamente, non mi sono informato su questo, non ho studiato, ricorda anche un po' Dune, secondo me, no? Questa cosa per cui si torna indietro, c'è il barone, c'è il duca, c'è il conte, c'è questa società feudale con le gerarchie che sembrano essersi dimenticate, cambiate, ma in realtà i padroni, chi detiene ancora i mezzi di produzione, i padroni delle imprese, delle ditte, i CEO, i manager, sono di fatto la riproduzione di quella roba lì. Tra l'altro, così a caso, purtroppo mi spiace dirlo perché è una cosa molto triste, però c'era un reel di Instagram che faceva notare che noi abbiamo preteso la democrazia nelle società col voto, poi entri in fabbrica, entri in azienda, vai a lavorare in ufficio e c'è il feudalesimo. Cioè c'è il re che dispone e controlla, ci sono i feudatari, ci sono tutta la catena di comando gerarchica del feudalesimo e tu sei, se va bene, il plebeo, la plebea che deve stare lì a lavorare zitto, cioè non puoi fare nient'altro. E sul creare la democrazia nei luoghi di lavoro si potrebbe pensare di creare l'ulteriore ultima frontiera della lotta sul posto di lavoro, della lotta di classe, perché obiettivamente non c'è democrazia nei posti di lavoro, se ne potrebbe parlare. Ora, quando abbiamo pensato a quali erano i testi che secondo noi vincevano il nostro concorso, abbiamo fatto un discorso sul tuo racconto, che era bello, interessante, faceva venire la voglia di sangue in bocca, cioè ci aveva la voglia di affilarsi i canini, perlomeno a me. Però c'è un passaggio che tu hai appena letto dove c'è secondo me uno scivolone incredibile di cui ti volevo proprio parlare, che riguarda il ruolo della figura femminile nel tuo racconto. Nel tuo racconto il ruolo della figura femminile è in due casi: o quello delle persone che subiscono l'assalto, che non vengono toccate dai maschi, quella parola proprio espressione maschi, oppure c'è le compagne, le donne che fanno parte del gruppo d'assalto che non prendono parte alla cosa, ma che al massimo incitano gli altri. Poi forse in un passaggio più avanti curano... eccetera. No, ma forse prendevano parte a un certo punto. Cioè, ne prendono parte solo in questa forma, non direttamente violenta, no? Forse non l'ho fatto tanto emergere. Comunque, sì, forse. Teoricamente la mia idea era di farle partecipare, però forse non ho fatto emergere abbastanza. Perché la questione è questa: cioè, per noi, in cui ormai è fondamentale, scontato, ovvio, necessario, che le differenze di genere ci sono, ma non certo nell'azione politica. No, vedere che nel tuo testo era così proprio schiettamente, praticamente una decisione. Mi spiace, cioè, spero che non sia un insulto per te, non lo è. Cioè, ne emerge una descrizione sessista sia del gruppo che attacca che del gruppo di chi subisce. Che poi del gruppo che subisce potremmo anche dirci che nella finzione letteraria chi se ne frega, se sono i nostri nemici, che facciano schifo, ci può anche stare. Il fatto che però quelli che vorremmo essere noi, che vengono presentati comunque come quelli che rappresentano la nostra parte, la figura femminile viene di fatto lateralizzata e messa lì soltanto a urlare o a soccorrere i feriti, è una roba che, te lo dico sincero, ma così deve essere detto, cioè per me quando ho letto quelle righe ho detto ok, basta, è finito. Cioè io lo finisco di leggerlo perché è bello, ma non può vincere. Cioè non può essere un racconto che per noi ha un senso, perché quella divisione lì per noi non può avere senso, non può esserci. Poi per il resto, obiettivamente, cioè anche in tanti, per esempio, questa è la mia opinione personale, altre persone della nostra giuria hanno avuto altre idee, però non, cioè per me proprio non si poteva passare da lì. È una roba che ho detto, cazzo, ma cioè, ci stava tutto, ma sei caduto proprio su sta roba qua che io non posso... Cioè, avevo pensato a questa cosa, solamente che magari c'è la mia idea era quella di fare una cosa un po' neutra, quindi cioè, pensavo magari la cosa delle donne fosse sottintesa che partecipavano all'assalto. Però sì, è vero, una cosa che ci ho pensato anch'io dopo, però sì, è vero. Beh, si può anche considerare che essendo una società che magari ritorna un po' indietro, magari cioè c'è un po' questa differenza qua che ritorna un po'. Cioè, ognuno poi può dare la sua interpretazione. Comunque sì, è vero, cioè, avevo anche proprio pensato a questa cosa. Sì. No, che io quando l'ho letto era uno dei miei preferiti, anche perché mi ricordava un sacco le ambientazioni dei romanzi che magari di solito mi piace leggere. E proprio perché mi ricordavo un po' quello, e poi essendo io una ragazza, quando lo leggevo pensavo che la protagonista fosse femminile, e quindi poi quando ne abbiamo parlato io e Gulli c'è stato questo momento in cui ho detto cacchio, io invece pensavo che la protagonista dell'assalto, visto che non sapevo ovviamente che l'autore fossi tu, fosse una lei, e quindi poi ne abbiamo parlato di come ho detto ok, però se io mi immagino, mi entro nel racconto, mi immagino parte di una milizia, poi alla fine mi immagino che io partecipi attivamente sì, come ragazza. E in realtà è un discorso che facciamo molto spesso di come anche nell'attività politica non è che per forza ci sono dei ruoli per cui se sei più abituata a farli devi continuare a farli. Che cazzo è qua? Scusate, mostro, mi sono spaventata. E però che continui a fare anche la parte più fisica di impatto d'azione, e quindi ho pensato come è bello vederla rappresentata, e sarebbe bello se mai ti capitasse di rimetterci mano anche sì. Ti va di prendere questo consiglio, a noi farebbe piacere. Poi per adesso secondo me è cioè, veramente interessante e soddisfa un po' di quei bisogni macabri che abbiamo noi militanti, che voglio tritare un po' di ricchi, ci sarebbe la voglia. E quindi tra l'altro se vuoi provare a leggerlo, perché tu giustamente non puoi averlo letto, all'interno del racconto ce n'è un altro che è uno dei racconti che secondo noi è stato vincitore, che si chiama L'Hypa Move, dove in realtà inizia con una festa organizzata in un Hummer limousine dai super ricchi con tutti i loro amici, e c'è questa gente che arriva e gli frantuma l'Hummer con loro dentro e glielo ribalta, per cui cioè nel senso è ovvio che quella parte lì ci piacerebbe un sacco, cioè, ci piacerebbe un sacco, però su quello scoglio lì onestamente mi sono sentito un attimino di dire no, così non è il mondo che io vorrei, non è il tipo di azione militante che io penso che sia giusta per me. No, ma certo, perché c'è il motivo per cui anche così cioè, è violento, non è tanto perché magari cioè, è quello che io cioè, personalmente desidererei, ma perché cioè, proprio l'idea era proprio quella proprio di un ritorno proprio al Medioevo, quindi tipo proprio agli archetipi, alla lotta, quella magari classe più arcaica, in cui i contadini si scontravano fisicamente con i cavalieri, i signori feudali e così. Quindi una città in cui comunque i mezzi razionali, diciamo, tecnici, legali, così sono venuti a meno, quindi c'è proprio la forza fisica come elemento, quindi era anche questo il motivo della violenza, che non è tanto proprio una violenza che magari va letta così in maniera fine se stessa da sola, ma calata in un contesto più grande, cioè appunto di proprio una società che è stata proprio violenta in generale su tutti i livelli, perché non esiste neanche, se ci pensiamo, una vera e propria polizia, non esiste, cioè comunque il contado, comunque le campagne si capisce, comunque sono spesso in mano anche a bande, comunque gente che non è comunque dentro magari dei poteri costituiti precisi, quindi un po' questo elemento. Poi c'è un altro elemento che magari viene più avanti, se volevi raccontarlo, che invece me è interessante perché rappresenta un modo in cui forse veramente riuscivano a vivere alcune comunità medievali molto unite, fatto che comunque loro in queste scorribande rubano. Sì. Rubano e portano via, e uno degli scopi è anche riappropriarsi di qualcosa di valore. E c'è un passaggio che avevo letto appena subito adesso, di cui Rob, che è un po' il caposquadra, si stupisce di come quella specifica banda di gruppo siano estremamente più corretti degli altri, cioè non cercano di tenersi le cose per sé, ma c'è la matematica certezza che tutto quello che rubano poi alla fine lo rimettono lì per dividerselo. E questa cosa qua forse è l'aspetto più che un po' manca obiettivamente, quello della rubare tutto sì, ma non è quell'atteggiamento di strada per cui comunque mi devo avvantaggiare io sugli altri, sulle altre, ma è una cosa reale proprio di affezione alla comunità per cui quello che io faccio poi rimetto insieme. E non so se volevi parlare, se volevi leggere anche quel pezzo, se l'avevi, non so. Cioè, però anche più altro che un po' avanti, ma adesso magari ci arriviamo se c'è tempo. Intanto vado magari avanti a descrivere lo scontro, passo dall'altra parte, vabbè. Ad un certo punto, vedendosi circondato, iniziò a cercare di crearsi uno spazio di manovra per tenere a distanza i pezzenti, come chiamava ad alta voce Milites, cercando di spingerli all'imprudenza. Furbescamente, prima di scendere alla consola, aveva posizionato le luci violacee delle lampade stroboscopiche in posizione fissa, e Dory e Dennis potevano chiaramente vedere gli avversari e raggiungere più facilmente i propri amici, formando formazione a riccio da cui affrontare gli intrusi. Tutta la scena ora era immersa in un bagno di luce dalle grottesche tonalità rosa-viola alternate, che assieme all'arredamento di frecce e finte statue neoclassiche della sala e la colonna sonora di sottofondo di suoni sincopati e ipnotici, dava al tutto una sfumatura grottesca ai limiti di una scena di sanguinoletto teatro dell'assurdo. Stranamente, notò Rob, il dandy con la fusta non aveva spento la musica, continuava come sempre ossessiva e tanto rumorosa da coprire i suoni e le urla all'esterno. al massimo scambiato per grida di feste occasionali dall'esterno. Non aveva fatto in tempo a spegnere, incalzato l'attacco che aveva quasi subito, travolto l'intero perimetro, oppure era una mossa per poter continuare la lotta senza interruzioni della forza pubblica allertata dai vicini allarmati. Il digno sotto i baffi, le pupille dilatate del signor Otto con la frusta facevano presagire un barlume di follia e desiderio bestiale. Mentre alcuni milites, non direttamente impegnati nello scontro imminente del controassalto di Dendis, continuavano a rovesciare tavoli del buffet devastati, trasformati in gelatinosi macelli di leccornie che si aggrovigliavano con le sofferenze di chi era già abbattuto a terra, passandosi a vicenda a bottiglie di vini di lusso ingollati con rapacità per poi spaccare le bottiglie a terra. Diversi signorotti, molti dei quali con le pupille già dilatate, si ingollavano pasticche bianche e blu, probabilmente metanfetamine che andavano di moda nei loro ambienti, dandosi la carica per poi attaccare con un urlo di battaglia all'unisono i milites, ingaggiando stavolta uno scontro frontale, spostandosi di continuo per non farsi accerchiare o venir messi all'angolo, scagliando occasionalmente sedie ed usando i tavoli rovesciati come i ripari temporanei. Si erano tratti circa una quindicina contro poco più meno di una trentina di 30 milites, senza contare chi per una bottiglia spaccata in testa, colpito alle gambe o frustato in viso, era ormai fuori gioco. Rob, assieme ad altri tre ragazzi che chiamò a sé con un tocco alla spalla, si posizionò all'ingresso, lasciando aperto che dava sul cortile, per impedire eventuali fughe dal mattatoio. Ma erano poi rimasti in piedi, forse per ideali cavallereschi, forse per rabbia o vendetta, oppure alterati da mescalina o da pasticche, non accennavano neanche alla fuga. Probabilmente erano tutti soci di qualcuno di quei club dandy che per noi, a difesa della propria classe o spirito d'avventura, compivano incursioni nei quartieri popolari alla ricerca di scontro, al pari dei cadetti spartani dei villaggi di Novi Loti, in nome di una macabra iniziazione. Intanto il signor Otto, partito in testa ai suoi, si faceva largo mulinando la sua fottuta frusta, un grottesco ghigno di scherno impresso il viso affusolato. Deciso a farla finita in fretta, Rob estrasse una delle carte bombe a miccia che teneva nelle tasche della giacca, sporca di frammenti di chiodi arrugginite. Accese la miccia con un accendino e, calcolando 7 secondi esatti, aspettò uno di quei momenti in cui la banda di Andy si raccoglieva e sordi dei loro capetti per spingere gli impatti nemici prima di scagliarla. Ne ferì circa 6 nello scoppio, colpiti in pieno, stordendo e gettando in uno shock gli altri, che in quel brevissimo lasso di inerzia furono immediatamente preda dei militanti della squadra popolare, che si chiuse come una tenaglia attorno a loro, travolgendoli con furia, buttandoli prima a terra colpi di bastone e catene, per poi calpestarli con altrettanta brutalità mentre erano a terra, dando occasione alle bastonate a chi tentava di rialzare la testa. Anche Rob, contraddicendo la sua usuale freddezza, si gettò sui nemici, piegando sulle ginocchia per poter colpire con pugni gomitate, potendo sentire da vicino i loro ranto e i fiati caldi. Il signor Otto con la frusta stava venendo strozzando col suo stesso cavo di battaglia. Probabilmente sarebbe morto se il ragazzo impegnato nella macabra operazione non fosse stato bloccato dai stessi compagni, che lo obbligarono a lasciare la presa. I feriti intanto venivano soccorsi dalle ragazze, dai quali era incaricato di portare il kit medico, e pur citando al massacro dei signorotti, se la sentiva dipendere all'atto finale di giustizia popolare. Quando i nemici a terra erano ormai così immobili e rantolanti, Rob dette ordine di fermarsi. Il blitz era concluso. A quel punto si procedette con la spogliazione dei vinti, a cui vennero portati via orologi, bracciali, sciarpe, copricapi ed anelli di marca che sarebbero stati portati alla cassa di mutuo soccorso popolare e rivenduti sul mercato nero. I proventi derivanti da questa operazione sarebbero stati redistribuiti tra i soci del comitato di mutuo appoggio rionale, dando priorità ai membri più indigenti con la famiglia. Ormai da anni Rob non ispezionava più i militi, i reduci di un'azione. Non era mai accaduto che qualcuno, a parte qualche leccornia, si fosse tenuto qualcosa per sé nei rad, ai club o figlie delle ZTL. In una delle assemblee dell'anno era stata votata la linea di fiducia per la quale non sarebbero stati ispezionati più i milites, dandone per scontato l'onestà, salvo se colti in flagrante. Lo stesso Rob era rimasto colpito dall'onestà naturale dei milites, almeno quelli della squadra di cui lui era responsabile, che l'indigenza, l'odio, la coscienza di classe, la miseria che vivevano lui e i ragazzi nella periferia urbana al di là delle mura venite dei checkpoint e le porte romane fossero talmente penetrati a fondo nelle loro essenze più intime senza bisogno di persuasioni o studi ideologici tanto da assumere una dimensione di bisogno primario e materiale come mangiare e respirare, talvolta aveva l'impressione che fossero coordinate una disciplina pratica e sincronizzata, più simile a quella degli imenotteri che a quella della sfera umana. Ok. Chiedo perdono, noi siamo qua da un po' di tempo, quindi insomma, in realtà stiamo andando verso la chiusura della serata. Ti ringraziamo tantissimo di aver portato il tuo scritto e penso che a questo punto tu vieni direttamente da Crema per questa cosa. Grande, grandissimo, è stato un piacere. Adesso magari nelle chiacchierate ci parliamo un po', perché a noi ogni tanto capita di andare a fare delle cose. Se vuoi partecipare oltre allo scritto magari ci si becca. Dai, mettiamo un po' di musica e poi basta, chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto direttamente, un po' di musica ce la mettiamo, da 10 minuti, 10 minuti. Grazie ancora, eh. Ciao belli. Bye.